Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi abbiamo un paio di domande interessanti che ci sono state poste riguardo agli aerei. Quindi, di cosa si tratta? Quali sono queste domande? Allora, se la Terra è piatta, i piloti di aereo se ne sono accorti? Perché nessuno parla? Questa è una domanda molto molto interessante. Io non credo che non se ne siano accorti, io credo che qualche domanda se la sono fatta anche loro. Il punto qual è? È che non è che puoi andare a giro a dire: ehi, ma secondo me è piatta, qui si vede, non c'è nessuna curvatura, andiamo a diritto, no? Difficile da dire, da tirar fuori una cosa di genere. È difficile per le persone normali come noi, figuriamoci per una figura importante come può essere un pilota di aereo, che deve è una certa figura, ci passerebbe male, o lo prenderebbero in giro, o potrebbe perdere addirittura forse il lavoro. Però credo che qualcuno lo sa. Perché Dio che qualcuno lo sa? Perché ci sono dei video di persone che hanno preso l'aereo e alla fine del viaggio dell'aereo sono andate e hanno chiesto di parlare con il pilota. Gli hanno detto apertamente questa cosa della terra piatta e il pilota ha detto sì, è vero, è tutto vero, non c'è nessuna curvatura. No, non è solo la persona comune che dice che non c'è nessuna curvatura, ma è anche persone che hanno studiato e che hanno strumentazioni che le dovrebbero aiutare anche a poter dire una cosa di genere, perché c'è il giroscopio dovrebbe essere praticamente la prova, una delle prove per cui la Terra è immobile, è stazionaria e non si muove, non gira in nessun modo. Quindi io credo che chi è pilota magari all'inizio della sua carriera non si pone questa domanda, poi comunque c'ha talmente tante cose a cui pensare lì in volo, in tutte le strumentazioni e tutto il resto. Credo che a un certo punto qualche domanda arriva, qualche dubbio ce l'hai, perché te vai, prendiamo per esempio un aereo, a parte chi dice che vede la curvatura e ha visto la curvatura della Terra dall'aereo, è impossibile, perché i finestrini dell'aereo distorcono l'immagine, non sono finestre normali, ma curvano anche da terra, anche quando sei a terra vedi e distorce l'immagine, quindi è impossibile poter vedere la curvatura dall'aereo, soprattutto perché ci sono anche le immagini dai palloni che sono molto molto più alti rispetto all'aereo, e da lì non si vede nessuna curvatura, quindi è impossibile vederla dall'aereo. Il punto interessante dell'aereo e di pilota è che quando ti alzi in volo, facciamo finta di essere dentro un aereo, ci alziamo in volo, l'aereo alza la punta, per un certo periodo continua a salire, arrivato alla sua altezza, a quella quota, l'aereo rimane a quella quota e continua ad andare a diritto, che non né sposta il muso dell'aereo né in alto né in basso, ma tengono quella quota, hanno questo strumento che gli crea un orizzonte virtuale in cui loro riescono a vedere in che direzione stanno andando, se stanno andando in basso, se stanno andando in alto. E per tutto il viaggio dell'aereo, e possono essere ore, sono tipo 8 ore di aereo a 500 km orari e il muso dell'aereo non si sposta mai. Se la Terra fosse tonda, a un certo punto l'aereo dovrebbe spingere il muso dell'aereo verso il basso per seguire la curvatura dell'aereo, perché sennò finirebbe nello spazio. È innaturale e senza senso pensare che l'aereo, andando a diritto, segue la curvatura della Terra. Non ha senso, perché te l'aereo lo posizioni in una certa maniera, va, ma a un certo punto deve poter curvare, deve poter fare questa curvatura, perché se no salirebbe di altitudine. E anche qui non c'è modo di distruggere questa cosa. Anche questo è un fatto che viene negato da tutti. Oltretutto, se davvero la Terra girasse, basterebbe alzarsi con un elicottero e aspettare che la Terra giri, e così è arrivato, senza bisogno di andare tanto in su e in giù, a destra e a sinistra, e fare no, ti alzi e aspetti. È ridicola questa cosa, non ha senso. E per l'appunto, infatti, le mappe che vengono usate sia navali che aeronautiche sono la mappa della Terra piatta. Il caso vuole che sia così, che è la stessa delle Nazioni Unite, che vediamo praticamente ovunque, anche quella la vediamo, cioè. Quindi cosa deve fare chi magari è pilota di aereo? Non credo che andare a dirlo ai 420 gli giovi alla salute, soprattutto mentale, adesso, anche se questa cosa sta avvenendo fuori piano piano. Però ci sono delle persone che sono fortemente in negazione su questa cosa, che gli provoca una forte rabbia e un forte odio nei confronti di chi vede questa cosa della Terra piatta, chi vede la menzogna. Un giorno forse verrà fuori e sarà una grande liberazione per tutti. Ricordatevi che non siete soli, chi vede queste cose non è solo, c'è chi combatte per tirare fuori questa cosa. Io ne sono la prova vivente, e come me ce ne sono tanti altri, e piano piano siamo sempre di più. Quindi un saluto a tutti dall'Arcadia, grazie a Radio Big World, grazie per essere stati con noi. Io sono Gabriele, alla prossima.